Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.06 e qualche secondo. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, la giornata economico-finanziaria. Sta ripartendo l'anno perché le notizie oggi sono davvero tante, ci sono tanti approfondimenti meritevoli appunto di essere commentati e rilasciati a beneficio di voi ascoltatori, che come sempre potete commentare con noi fatti del giorno al 349-238-6666. Riceviamo i vostri sms, riceviamo naturalmente anche i vostri sms attraverso WhatsApp. Allora, di cosa parleremo oggi? Vi faccio una rapida sintesi. Naturalmente la giornata di borsa, perché è stata molto interessante. Milano, pensate che fino a mezz'ora fa guadagnava oltre un punto percentuale abbondante. Adesso vedo che si sta tutta la salute in Europa rapidamente sgonfiando. Gli indici mantengono ancora il territorio positivo, ma guadagnava molto terreno anche Wall Street. Il mercato americano oggi ha ripreso le contrattazioni. Ieri era ancora in pausa e quindi oggi inaugura ufficialmente il mercato americano il 2017. E tutti sono con il fiato sospeso perché c'è il Dow Jones che sta toccando questa soglia mai toccata nella sua storia di 20.000 punti. Era ad un passo dal farlo poco fa, ma adesso vedo un ridimensionamento. Comunque c'è ancora tutta la giornata, più 0,35% adesso per il principale paniere americano, per lo Standard & Poor's più 0,60%. L'Europa invece vede Parigi in rialzo di mezzo punto, gira in negativo Francoforte meno 0,18%, Londra anche Londra ieri era chiusa, oggi recupera lo 0,7%. Peraltro ha ripreso anche a correre ha ripreso a correre oggi la sterlina, ha ripreso un po' di posizioni dopo la pubblicazione delle PMI appunto manifatturiero del Regno Unito. Milano più 0,28% sul FTSE MIB. Ancora una volta protagonisti della salute titoli del comparto bancario, il Banco BPM di nuovo in volata, ieri più 9%, oggi è arrivata a guadagnare più di 10 punti, adesso il limite è rialzo a 6 punti, ma comunque porta con sé tutte le altre banche. Segnalo anche la prestazione di Fiat più 2 punti percentuali, perché oggi faremo un approfondimento sul dato che è arrivato ieri sera dopo le 18. Ad inizio del mese viene sempre pubblicato il dato relativo alle immatricolazioni di nuove auto in Italia riferite al mese precedente. Commenteremo come è andata appunto a dicembre, ma soprattutto commenteremo cos'è stato per il mercato automobilistico italiano tutto il 2016. È stato molto buono, ma l'industria di settore dice a questo punto ci sono tutte le condizioni affinché in realtà il mercato si fermi un po' e si prenda un anno di pausa, e questo potrebbe essere il 2017. Parleremo poi di consumi degli italiani. È stato diffuso proprio oggi il rapporto COP 2017, il sondaggio di fine anno con le previsioni sui consumi appunto dell'anno che si apre, e anche qui tante indicazioni interessanti, perché nel rapporto COP si parla, riferendosi naturalmente all'Italia, di un paese che sta alla finestra e che, passati gli anni bui della recessione, spera nel futuro ma stenta a metterne a fuoco i dettagli. Cercheremo di capire con chi l'ha curato appunto cosa significa questa espressione. Il tema del giorno, in realtà, al quale dedicheremo un approfondimento, non l'abbiamo ancora indicato, è però il petrolio, perché sta ritoccando livelli che non si vedevano almeno dalle estate del 2015. Siamo a New York a $55 al barile, a Londra a 58, effetto dei primi tagli produttivi che sono stati avviati dai paesi OPEC, che hanno naturalmente firmato l'intesa di fine novembre che per la prima volta da 15 anni appunto ha stabilito un taglio dei tetti produttivi per ridare un po' di fiato naturalmente alle quotazioni, che sono letteralmente crollate l'anno scorso. Insomma, anche stasera ne abbiamo di carne al fuoco. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Partiamo con le notizie in breve. Allora, dicevamo le materie prime, vi ho già dato appunto la notizia del giorno, il petrolio in forte rialzo sia a New York che a Londra. Questa mattina il petrolio americano WTI ha toccato $55 al barile, poi è toccato anche al Brent a Londra a 58. Questo rally da che cosa è determinato? Appunto dal taglio della produzione di alcuni dei paesi OPEC che hanno cominciato a farlo, il Kuwait e l'Oman nella fattispecie. Ne parleremo diffusamente nella seconda parte della trasmissione. Per quello che riguarda invece l'oro, oggi siamo attestati a $1,150 l'oncia. A Altre sortite protezionistiche da parte del neoeletto presidente americano Donald Trump. General Motors sta inviando un modello di Civic Cruise fatto in Messico ai concessionari americani esentasse. Faccia le auto negli Stati Uniti o paghi pesanti tasse doganali. Lo ha scritto utilizzando il suo mezzo di comunicazione preferito, Twitter, appunto proprio il presidente Trump. Dopo questa dichiarazione hanno avuto un pochino di ribasso le azioni di General Motors, ma siamo intorno all'ordine del punto percentuale. Il neopresidente americano aveva già minacciato la Ford nello stesso modo. Lo scorso novembre General Motors aveva annunciato l'intenzione di licenziare almeno 2.000 dipendenti in due fabbriche, inclusa una a Lordstown nell'Ohio, dove costruisce la Compact Chevrolet Cruze. La casa automobilistica avrebbe poi pianificato di realizzare appunto la Cruze Hatchback in Messico e di continuare a costruire invece la Cruze Sedan in Ohio, ma insomma tutto ciò evidentemente, come è noto, al presidente americano non piace. Nel frattempo Donald Trump ha nominato come Trade Representative, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, avvocato che era stato vice rappresentante commerciale quando era, pensate, presidente Ronald Reagan, e quindi insomma un uomo che sicuramente, a cui sicuramente l'esperienza non manca. Lo ha reso noto oggi il team che si occupa della transizione. Lighthizer, durante l'amministrazione Reagan, aveva giocato un ruolo cruciale nella negoziazione di oltre una ventina di accordi bilaterali internazionali su una serie di questioni, dall'acciaio ai prodotti agricoli. Accordi, sostiene la squadra di Trump, che si sono spesso tradotti in significative riduzioni delle importazioni di prodotti commercializzati in modo ritenuto iniquo. Andiamo adesso in Cina. Peraltro stamattina dalla Cina è arrivato un dato sull'andamento del settore manifatturiero che è stato particolarmente buono e ha spinto anche tutti i mercati asiatici, anche questi in gran parte alla prima seduta dell'anno. Ma in Cina è successo dell'altro. Allora, i bitcoin sfondano il tetto dei $1,000 per la prima volta dal 2013. Fra i fattori che hanno inciso sulla risalita delle quotazioni del prezzo appunto di questa moneta alternativa, chiamiamola così, ci sarebbe l'ampio utilizzo da parte di nazioni come la Cina, dove la criptomoneta è usata in oltre il 20% delle operazioni di cambio. E proprio in queste ore Pechino ha annunciato nuove regole per i trasferimenti in valuta. Da luglio 2017 tutte le operazioni cash sopra i $7,200 dovranno essere tracciate. Insomma, anche questa è una rivoluzione veramente per l'amministrazione di Pechino. Intanto, stando ai dati resi noti dalle piattaforme in cui la valuta è scambiata, la quotazione di $1,000 sarebbe stata raggiunta domenica, prima sessione di contrattazioni nel 2017. Il 23 dicembre scorso la valuta aveva superato il valore di $900, quindi pensate, nel giro di pochissimi giorni $100 in più. Creata nel 2009 da una persona di cui non si conosce l'identità, ma solo lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, il Bitcoin non è regolato da banche centrali o da altre autorità finanziarie. Ha avuto un periodo di larghissima espansione fino al febbraio del 2014, quando la principale piattaforma appunto che gestiva tutte le operazioni legate al Bitcoin appunto è scomparsa dal web per bancarotta. Il numero uno della piattaforma, Mark Karpeles, è stato in seguito accusato dalla polizia giapponese di aver gonfiato i conti facendo leva su un presunto attacco hacker. Lasciamo le vicende del Bitcoin in Cina e parliamo invece di quello che succede a Londra, dove riparliamo di nuovo peraltro di Airbnb, perché ne abbiamo parlato anche ieri a Cuore Denari, raccontando di come tutti i turisti che hanno affollato New York in questi ultimi giorni abbiano scelto proprio questo circuito per trovare il posto in cui stare, quindi preferendo il tradizionale albergo o hotel. Però Airbnb andrebbe incontro ad un deciso calo degli introiti, dove ce lo dobbiamo aspettare in questo momento, nel Regno Unito, sulla scia dell'introduzione di nuove regole per il mercato londinese che limitano a 90 il numero di notti in cui ciascun host può dare in affitto una stanza o un appartamento tramite appunto il sito ogni anno. Stando ad un'analisi del Financial Times, che si basa sui dati della società di ricerca All the Rooms, le limitazioni introdotte a Londra, che è peraltro il secondo maggior mercato per Airbnb, costeranno alla società americana, che peraltro ancora viene definita startup, ma ormai a noi sembra qualcosa in più di una semplice società che sta decollando, costerà appunto alla società americana, tutto questo gruppo di limitazioni del Regno Unito, almeno $400 milioni in prenotazioni perse. Notizie importanti che arrivano dalla Germania. Oggi era atteso il dato sulla disoccupazione di dicembre, ma soprattutto anche il dato sull'inflazione. Allora, intanto la disoccupazione tedesca resta ferma a dicembre al 6% e siamo ancora ai minimi dai tempi della riunificazione. Ci sono numeri record per il mercato del lavoro tedesco, perché il 2016 è stato l'anno migliore dal 91 ad oggi. Il numero dei disoccupati è sceso per la prima volta da allora sotto i 2,7 milioni. E anche addirittura l'Agenzia del Lavoro ha chiuso il 2016 con un avanzo di bilancio di 5,5 miliardi. Sale però a sorpresa l'inflazione. A dicembre, sempre su base annua, siamo all'1,7% e si tratta del balzo più alto nelle statistiche tedesche, con il tasso appunto più alto da luglio 2013, abbondantemente sopra le attese degli analisti che pronosticavano un tasso all'1,3%. A trainare i prezzi tedeschi, l'andamento rialzista del prezzo del petrolio. Qualche notizia che arriva invece dall'Italia. Lo spread questa mattina, proprio dopo l'inflazione tedesca, è risalito a 160 punti. Stiamo parlando appunto del differenziale di rendimento che c'è fra il BTP italiano, il titolo decennale tedesco, e il Bund, il titolo decennale italiano e il Bund tedesco. L'impennata appunto dell'inflazione in Germania dovrebbe alimentare, dicono gli esperti, gli analisti, un aumento dei prezzi al consumo in tutta l'Eurozona, rinforzando così la posizione di coloro, i cosiddetti falchi, che chiedono un graduale ridimensionamento del quantitative easing della BCE, che di fatto comunque è già stato deciso, perché come sapete attualmente la BCE compra 80 miliardi di euro al mese di titoli di Stato ed obbligazioni corporate, e non solo, da aprile in avanti si passerà a 60, quindi una riduzione c'è, ma evidentemente non è per i falchi della Banca Centrale Europea ancora sufficiente. Sempre per quello che riguarda le notizie dall'Italia, questa mattina c'è stata un'intervista su Repubblica del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che ha annunciato che il governo potrebbe approvare un decreto per lanciare il reddito di inclusione, una misura a sostegno delle famiglie più povere, delle quali ciclicamente, misure delle quali ciclicamente appunto si parla. Martina ha detto che il provvedimento d'urgenza sarebbe lo strumento migliore per rendere operativo nel giro di poche settimane il nuovo appunto sostegno. E il reddito di inclusione potrebbe svoltare proprio con gli strumenti di contrasto alla povertà, in sostegno appunto, dovrebbe andare in sostegno di famiglie e persone in grave difficoltà economiche. Un lavoro, come sapete, è già stato fatto parzialmente dal governo Renzi, perché con la legge di stabilità del 2016 era stato definito un fondo da 1,150 miliardi. C'è stato il commento subito dopo del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha detto che effettivamente l'esecutivo considera una priorità assoluta l'impegno per l'attuazione di una misura universale di contrasto alla povertà e all'inclusione sociale, per cui considera apprezzabile ogni iniziativa del Parlamento che vada nella direzione di renderla rapida. Si ricorderà naturalmente che è già in corso un'altra iniziativa, il sì al sostegno all'inclusione attiva. L'obiettivo appunto del governo sarebbe quello, secondo le parole di Poletti, appunto di ampliare i benefici, la platea dei beneficiari di questa misura già attiva, in modo tale da rendere utilizzabili tutte le risorse previste per il 2017. Allora, scade oggi, qua andiamo ai temi del risparmio tradito italiano, e anche su questo vi preannuncio che presumibilmente giovedì in Investire Informati ne parleremo anche a Cuore e Denari. Scade oggi il termine, è scaduto oggi a questo punto, perché non so in questo dalle 5 in avanti cosa possiamo fare, il termine per presentare la domanda per il rimborso forfè dell'80% delle obbligazioni subordinate delle quattro banche risolte, lo ricorderete, novembre 2015, obbligazioni il cui valore era stato azzerato con il salvataggio appunto di quel mese di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. Sono pervenute circa 14.000 pratiche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che sta gestendo tutta la pratica di rimborso, e naturalmente sono considerati anche numerosi casi di cointestazioni, acquisti multipli o successioni. Al 30 dicembre ne sono già state liquidate circa 2.648 per 35 milioni di euro. Il Fondo Interbancario fa sapere che circa il 90% dei rimborsi ammonta ad una cifra inferiore ai 20.000 euro. Direi che per le notizie in breve abbiamo già raccontato tante cose. Ai nostri ascoltatori è tempo di andare al nostro primo approfondimento di questa sera. Che anno sarà il 2017 per i consumatori italiani, quelli che frequentano naturalmente soprattutto i supermercati, i centri commerciali, insomma ne sa molto la Coop, che oggi ha diffuso il suo rapporto consueto di fine anno. Scatta generalmente Coop in questo periodo dell'anno appunto una fotografia sull'anno che verrà, un sondaggio con le previsioni sui consumi, e naturalmente in questo caso faremo una fotografia anticipatoria possibilmente di quello che è possibile prevedere sulle 2017. Si parla nel rapporto pubblicato proprio nelle ultime ore di un paese che sta alla finestra e che, passati gli anni bui della recessione, spera nel futuro ma stenta a metterne a fuoco i dettagli. Allora, buonasera ad Albino Russo, responsabile ufficio studi economici Coop. Buonasera. Grazie, Russo. Buonasera. E buon anno naturalmente. Anche a voi. Per voi è sempre di lavoro perché fate sempre il sondaggio, anche se in realtà immagino che prima abbiamo di... Abbiamo delle vacanze sempre piene. E infatti, ma tra l'altro in che periodo lo svolgete questo sondaggio, Russo? Questo sondaggio è stato fatto all'inizio di dicembre. Ecco, quindi il tempo di elaborarlo e a inizio anno pronto ad essere sparato ai giornalisti per commentarlo naturalmente. Allora, colpisce molto intanto la modalità con cui gli italiani descrivono l'anno che è appena iniziato, utilizzando in prevalenza alcune parole: speranza, cambiamento, timore. Come avete valutato insomma le previsioni di spesa che gli italiani sosterranno in questo anno che si preannuncia un po' difficile per tanti motivi? Noi non facciamo altro che dare, Russo, anche la carrellata di tutti gli aumenti previsti, parliamo di autostrade, le tariffe di luce e gas, i redditi che sono sempre più magri, un mercato del lavoro che ha tutte le sue difficoltà. E allora, le previsioni fondamentali di questo rapporto? Ma gli italiani non perdono la speranza, potremmo dire così, hanno capito che la parte più difficile della recessione è finita, ma non vedono all'orizzonte una ripresa piena. Sono consapevoli del fatto che l'anno prossimo spenderanno di più per energia, bollette, carburante, cioè vedono, attendono una crescita dell'inflazione e mettono avanti questa necessità di prevedere nel loro budget uno spazio più grande per queste spese obbligate. Circa un quarto degli italiani si attende questo aumento. Poi sperano di investire una parte delle loro risorse in beni e soprattutto servizi che vadano incontro ai loro bisogni. Ancora una volta sono i viaggi a fare la parte del leone nelle attese di spesa, nelle intenzioni di spesa degli italiani. C'è poi un ritorno della voglia di casa che si vede soprattutto nella spesa per l'arredamento e gli elettrodomestici, ma anche sotto traccia in una voglia di tornare a guardare al mercato immobiliare approfittando dei bassi tassi di interesse e di alcune occasioni che possono esserci visti i bassi corsi immobiliari nelle nostre città. Poi rimangono la voglia di divertirsi, la voglia di fare quanto occorre al viver bene, al benessere individuale, nella pratica sportiva, nel carrello della spesa. Dopo molti anni infatti notiamo che le persone che intendono spendere un po' di più, aggiungere valore ai loro acquisti alimentari, sono in numero maggiore di quelli che invece vedono ancora nella spesa alimentare un'occasione di risparmio. Albino Russo, senta, ma a voi a che cosa serve questo rapporto? Nel senso, orienta anche a monitorare un po' il mood, il sentiment degli italiani, le vostre politiche commerciali a seconda appunto dei risultati che registrate? Perché vi serve conoscere tutto questo rispetto agli italiani? Non vi basta sapere che cosa piace loro pescare dagli scaffali del supermercato? Insomma, perché andate oltre con il monitoraggio dei consumatori? Noi non siamo solo un'impresa distributiva, ma siamo un movimento di 8 milioni e mezzo di persone che sono proprietarie delle nostre cooperative. E quindi è un dovere per noi essere al fianco degli italiani non solo quando fanno la spesa, ma anche quando sono seduti davanti alla TV, quando prendono un treno, quando pensano al futuro dei loro figli. E poi per capire i consumi oramai non basta guardare l'attimo in cui vengono spese le risorse, ma bisogna capire fino in fondo quello che gli italiani hanno nella testa, hanno nel cuore, hanno nelle tasche soprattutto. Questo ci spinge a approfondire quello che accade agli italiani. Siamo convinti che gli italiani in questo momento stiano cambiando molto e molto velocemente, e lo facciano, ahi noi, anche più di quanto non stiano cambiando le imprese. Ritengo infatti, e questo è un parere strettamente personale, che la grande, l'enorme sfida che hanno le imprese italiane davanti, soprattutto quelle che si confrontano con il mercato finale, è proprio di interpretare il cambiamento degli italiani e delle famiglie e, se possibile, guidarlo e accompagnarlo. Mm. Ci diceva prima, il 2017 presumibilmente sarà l'anno del rallentamento del potere d'acquisto delle famiglie che subiranno un po' anche il cambiamento del ciclo dei consumi, l'inflazione che tornerà a crescere, che da una parte è anche una buona notizia perché implica una ripresa economica, ma naturalmente poi si fa sentire nel portafoglio delle famiglie. Come influirà sull'attività della grande distribuzione? Che anno è stato il 2016 russo e il 2017, appunto, come si preannuncia per voi operatori di questo ambito così importante anche per l'economia italiana? Ma gli ultimi due anni sul totale dei consumi delle famiglie, quindi di tutta la spesa delle famiglie, abbiamo visto un incremento di circa 1,5 punti. Un incremento nel 2017 si dimezzerà, noi stimiamo poco attorno allo 0,7%. Perché? Perché ritorna l'inflazione, che era stata invece l'elemento che aveva permesso di alzare il potere d'acquisto delle famiglie, la mancata inflazione. Torna l'inflazione, le famiglie spenderanno un po' di più nelle bollette, alla pompa dei carburanti, e quindi avranno un po' meno soldi da spendere per gli altri consumi. Ora, questo incremento degli ultimi anni nei consumi ha riguardato essenzialmente due tipologie di prodotti: i beni durevoli, essenzialmente l'auto, e i servizi. Della quale peraltro parleremo a fine trasmissione, perché l'anno è andato molto bene per questo settore. Esatto, è andato molto bene per chi vende auto, è andato molto meno bene per chi vende altri beni, soprattutto i beni durevoli e semidurevoli. Diciamo, la ripresa dei consumi degli ultimi due anni non ha riguardato due grandi aggregati, che sono l'abbigliamento e anche l'alimentare. E tra l'altro non servono neanche i saldi per rilanciare questo settore, che viene quasi oggi considerato un bene voluttuario. L'auto era reduce invece da un periodo nerissimo, con le vendite, appunto, non dico quasi azzerate, ma veramente crollate, di conseguenza anche tutto l'impatto sul credito al consumo e quant'altro. Adesso, nel momento in cui riprende l'auto, che è un acquisto impegnativo per la famiglia, è chiaro che si riorganizza un po' tutto il budget, no? Il nucleo familiare. Quindi noi chiudiamo un anno come grande distribuzione appena vicini allo zero, solo perché abbiamo sofferto lunghi mesi deflattivi. Ancora una volta la deflazione è un'ottima notizia per le famiglie, ma una pessima notizia per le imprese. Chiudiamo a zero solo grazie ad una piccola ripresa nelle ultime due settimane delle vendite natalizie, che hanno fatto segnare nelle ultime due settimane dell'anno un incremento di circa il 2%. Siamo ancora limando le stime, ma dovremmo essere attorno a questa cifra, concentrate peraltro nella settimana di Natale e molto meno in quella dell'ultimo dell'anno. Un ultimo commento russo, proprio di pochi secondi: qual è secondo lei l'aspetto più sorprendente che è emerso da questa indagine? Ce lo ha detto o ce lo ha nascosto, almeno dal suo punto di vista? Ma io credo la grande voglia degli italiani di cambiare. Gli italiani si guardano attorno e vedono soprattutto nella tecnologia l'elemento che gli può cambiare la vita. Ad esempio, il 74% degli intervistati è propenso a utilizzare supermercati intelligenti, il 73% vorrebbe case sensibili, la domotica, la tecnologia digitale, sono degli elementi che fanno parte del panorama quotidiano degli italiani e che gli italiani vedono veramente abilitanti nella loro vita individuale. Grazie ad Albino Russo per essere stato con noi, responsabile ufficio studi economici della COP, a presentazione appunto del rapporto COP 2017 pubblicato proprio stamattina. Naturalmente spero di sentirla prima, male che ci vada, ci risentiamo tra un anno in questo stesso periodo. Speriamo Russo. Prima. Grazie, buon grazie lavoro. Molto. Allora, anche un saluto anche a lei, ci fermiamo. Allora, qua vedo la borsa che ha proprio completamente, proprio si è afflosciata letteralmente, il FTSE MIB più 0,28%. Siamo in chiusura, commenteremo i temi del giorno tra pochissimo, dopo la nostra prima pausa di oggi. Focus Economia. Intanto, proprio a proposito della notizia che abbiamo dato prima sulla nuova presa di posizione contro General Motors da parte di Donald Trump, abbiamo appunto appreso poco fa che la Ford Motor cambia invece rotta sugli investimenti nel 2017 perché punta sugli Stati Uniti e non più sul Messico, in linea con la nuova presidenza Trump, e quindi lo ha fatto sapere il colosso di Detroit, che ha deciso di cancellare i suoi piani per lo sviluppo di una fabbrica a San Luis Potosí in Messico, cosa che sarebbe costata più di $1.5 miliardi, e a questo punto i fondi verranno destinate all'ampliamento di uno stabilimento in Michigan che ha largamente dal punto di vista elettorale premiato Trump, per cui ecco qua gli scambi che avvengono poi in un secondo momento. Allora, però ciò ci interessa poco oggi, perché ci interessa invece proprio questo afflosciamento, che non saprei come altro definire, della giornata finanziaria. Andavano molto meglio le cose, addirittura il Dow Jones, insomma, era tutto proiettato a raggiungere i 20.000 punti, eravamo qua pronti a dare la breaking news, a quanto pare oggi non ce la facciamo. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E niente, pazienza. Allora, che è successo? Perché proprio qua nell'ultima ora che si è proprio come un palloncino sgonfiato tutto, Milano guadagnava oltre un punto, quasi un punto e mezzo, adesso più 0,28%, sempre positiva, per carità, portiamo a casa, però... Che è successo? Diciamo che c'è stata una frenata di Wall Street, in particolare dei titoli finanziari Wall Street. Come hai detto tu, la borsa americana aveva aperto molto bene, il Dow Jones puntava addirittura a quota 20.000, poi hanno preso piede qualche piccola presa di beneficio, anche se poi vedremo nel finale come chiuderà la borsa americana. Per quanto riguarda le borse europee, ieri era stata un'ottima seduta, alla fine comunque oggi, a parte Francoforte, Parigi chiude a più 0,4%, Londra che ieri era chiusa a più 0,4%, alla fine a Milano un più 0,3% con i titoli bancari nuovamente sugli scudi. Infatti ci tocca ripetere un po' tutte le cose di ieri, vedi tu se vuoi andare di sintesi con il banco BPM, UbiBank, Popolare dell'Emilia Romagna, comunque prestazioni veramente interessanti. Ceo. Sì, mi soffermerei sul banco BPM, che oggi avanza ancora di un altro 7%, ieri mi pare avesse 9, fatto, sì, più 9. Fatto un altro 9%, cioè, bisogna anche ricordare che il Banco Popolare e BPM, che sono poi le banche che si sono fuse nel banco BPM, nel 2016 erano state le peggiori del FTSE MIB, avevano perso il 76% e il 61%, quindi questo giusto per dare un po' la giusta dimensione ai rialzi che si stanno verificando in questi giorni. Sì, però comunque insomma che nel giro di due giorni all'inizio dell'anno il mercato riscopre le stesse medesime banche che avevano bastonato fino al 29 dicembre, ha un po' dell'incredibile. Io capisco volersi pian piano ricoprire, ma addirittura 3-4 punti al giorno, 5, vabbè, insomma tutto molto interessante. Speriamo che queste banche, oltre a rinfrescare la capitalizzazione di borsa, ricomincino anche a fare il loro dovere nei confronti dell'economia reale, che è sempre quella catena che manca e della quale ci si lamenta molto spesso anche da questi microfoni. Dicevamo appunto bene anche le popolari, le altre, UbiBanca, Popolare dell'Emilia Romagna, che stanno continuando a mostrare questa situazione positiva per le speculazioni possibili a operazioni sulle good bank delle quattro banche risolte. Ancora però oggi novità non ne abbiamo, no, non ci sono novità, anzi le novità sono di possibili nuovi slittamenti, anzi quelle cose il mercato sembra quasi contento, tra virgolette, diciamo il rallentamento, comunque i nuovi approfondimenti su queste operazioni. Come sappiamo, le good bank sono good ma non tanto, perché sono emersi nuovi crediti dubbi all'interno di questi bilanci. bilanci. Per UbiBank alcuni analisti ipotizzavano anche un possibile aumento di capitale per rilevare tre di queste quattro good bank, quindi operazioni non prive di incognite in uno scenario diciamo decisamente critico per tutto il comparto del credito in Italia. Anche Azimut è andata molto bene, il colosso del risparmio gestito che peraltro si sta rendendo veramente protagonista del mercato internazionale perché continua a fare un sacco di acquisizioni. Nel 2016 la storia di questa azienda è stata costellata appunto da tante operazioni fatte soprattutto in Australia. Comunque continua ad andare molto bene, anche perché il risparmio degli italiani sta continuando ad andare sul settore dei fondi di investimento ed Azimut ne è una leader assoluta. Mediobanca più 30, da San Paolo più 2,29. Andiamo ai titoli petroliferi. Va Saipem più 2%, Eni rimane un po' più indietro, mi sembra. Anzi, alla fine sta quasi cedendo, era andata meglio nel corso di tutta la giornata. CEO. Sì, il petrolio oggi è arrivato in mattinata a toccare i massimi da luglio 2015, il WTI. È arrivato a ridosso di $55. Ne parliamo tra pochissimo, peraltro. Adesso ha frenato un po', comunque sempre in rialzo. Chiaramente Saipem ed Eni ne hanno beneficiato. Adesso Eni chiude praticamente sulla parità, meno 0,06%. Andiamo invece alla giornata di Fiat. Più 1,90% per sì, Fiat Chrysler. Un'ottima Fiat, spinta, torna a vedere, poi quota 9 euro. Non succedeva da tanto, da ottobre 2015. Due fattori a spingere il titolo ormai ex del lingotto: le vendite in Italia, ieri ci sono stati i dati delle immatricolazioni, più 14,1% a dicembre, la quota di mercato ormai del gruppo in Italia è a ridosso del 30%, e poi sono tornati dei vecchi rumors su possibile M&A negli Stati Uniti con General Motors, indiscrezioni che comunque hanno l'effetto di dare benzina al titolo. Chissà cosa ne pensa Trump di tutto questo, sarà interessante, sicuramente su Twitter scriverà qualcosa con 140 caratteri nelle prossime ore, visto che oggi è così attivo con commenti sul settore automobilistico, forse arriverà qualche cosa anche indirizzato a Sergio Marchionne, che peraltro domani presenterà delle novità e noi domani ne parleremo anche a Focus Economia alla CES di Las Vegas, il Consumer Electronics Show, è la fiera dedicata al mondo dell'elettronica e a quanto pare Fiat presenterà il nuovo veicolo con motore elettrico, c'è grande attesa anche per questo, ne parleremo appunto domani, quindi probabilmente sul titolo spinge anche questa notizia. Bene oggi anche Unipol più 1,66, Generali più 0,7%, Brembo più 0,58%. Andiamo un po' dall'altra parte invece della classifica con i titoli con le prestazioni peggiori. Allora Luxottica meno 2,71%, che è un po' anche condizionata presumibilmente anche dal cambio euro-dollaro così variabile in questi giorni. Prysmian meno 2,44%, STM meno 2,41%, Terna meno 2,30, volevo arrivare oggi all'andamento di Mediaset meno 1,25%. CEO. Dai, oggi qualche realizzo su Mediaset, già ieri è già qualche seduta che il titolo non è più sulle montagne russe o protagonista di forte rialzo. No, anche perché dicevamo ieri con Antonella Olivieri c'è ben poco da comprare ormai in borsa, tutto quello che deve essere suddiviso fra i grossi infatti, azionisti. Quello è ormai. Diciamo che assieme alla giornata di Mediaset ci sono anche le utility oggi in fondo al listino, titoli prettamente difensivi che oggi hanno pagato abbastanza dazio e ne l'ha perso oltre l'1%, lo stesso può dirsi di Snam e anche di Italgas. Terna ha lasciato sul terreno anche il 2,3%. Tutto ciò potrebbe essere anche influenzato da un leggero rialzo dei rendimenti sul mercato obbligazionario. Ah, ecco, quindi c'è questa relazione. Senti, sta continuando a correre da qualche giorno, qualcuno ipotizza, ma non si sa con che tipo di legame, delle operazioni proprio legate alla scalata di Vivendi su Mediaset. Dicevamo appunto di Mondadori, che nel giro di pochissimi giorni ha realizzato guadagni a due cifre molto consistenti. Oggi che cosa è successo? Sta continuando il trend positivo per sì, il gruppo editoriale? Ha guadagnato un altro 3,9% Mondadori e l'ipotesi che circolava oggi, anche questa ovviamente tutta da verificare, è il fatto che ci potrebbe essere una fusione difensiva o comunque un'operazione difensiva che potrebbe coinvolgere Mondadori e Mediaset. Quale sarebbe l'obiettivo? Quello ovviamente di aumentare la presa della Fininvest su Mondadori, considerato che considerato che Fininvest ha il 50% di Mondadori. Andiamo ai titoli con minor capitalizzazione, allora andando a vedere peraltro i più più scambiati e i titoli con i rialzi più forti. Abbiamo Premuda più 22,4%, Ceramiche Ricchetti più 20%, Innovatech più 18%, Gas Plus più 18%, Banca Profilo più 16,5%, TAS più 13,5%, continua a correre anche Classe, una società, un altro gruppo editoriale, appunto più 13,3%, Sintesi più 11,83%, invece i ribassi più consistenti, che non sono a due cifre, ma abbiamo Cover 50, chissà cosa fa questa società, adesso sono curiosa, vado a vedere, meno 6 punti, Energica Motor Company meno 5, Sias meno 5, Gala meno 4,31, Lucisano Media Group meno 4%, anche Casta Diva Group, che è la società che gestisce il Blue Note di Milano, perde 3 punti percentuali. Oggi vedo che è un po' per l'intrattenimento, è stata una giornata non positiva, ma tra i titoli a minor capitalizzazione oggi da segnalare anche la prestazione CEO di Fincantieri. Sì, Fincantieri cresce, è un titolo che veniva comunque da un periodo non troppo positivo, nei mesi scorsi si era anche parlato di un possibile aumento di capitale, sarebbe il candidato favorito per rilevare il 66% del polo San Nazar di SXT, questo 66% in mano a una società coreana che è in amministrazione controllata, c'è stata una gara, Fincantieri è la favorita sostanzialmente per rilevare questa quota. Abbiamo altre notizie da dare, abbiamo fatto il resoconto completo della seduta? Abbiamo dato tutto. Ceo, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Intanto, per chi ce lo chiede, no, guardate, notizie su Monte dei Paschi oggi non abbiamo, ne facciamo volentieri a meno, diamo un po' di tregua a Marco Morelli, quantomeno che faccia il suo lavoro, deve andare ad incontrare lo staff della Banca Centrale Europea nei prossimi giorni, quindi proprio per ritornare a ridefinire tutte le questioni sospese, in particolar modo, lo dicevamo ieri con Luca Davi, appunto la questione delle sofferenze, crediti inesigibili, che è la grande rogna di Rocca Salimbeni, fra tutte quelle che ha, quella è sicuramente questa, è quella sicuramente più imponente. Adesso direi che possiamo cambiare argomento, lo possiamo accompagnare da un cambio anche musicale, volentieri, grazie. Allora, sono le 17.44, io direi che posso molto volentieri salutare il nostro ospite di oggi, che è Maurizio Mazziero, Mazziero Research, buonasera. Buonasera a lei, sui radioascoltatori. Perché dobbiamo adesso necessariamente approfondire questo nuovo trend del prezzo del petrolio, ma in realtà il 2016 tutto è stato proprio l'anno della riscossa delle materie prime, il mercato molto confidente nelle promesse elettorali di Donald Trump, sul petrolio però le notizie sono altre, allora oggi dobbiamo rinfrescarci la memoria su quello che ha deciso l'OPEC e non solo a fine novembre, circostanza che diventa operativa da questi giorni, e sui prezzi del petrolio appunto gli effetti si avvertono subito. Però Mazziero, guardi, per non farla cominciare e poi interromperla subito, sentiamo subito il traffico e poi cominciamo con lei questo bel commento. Focus Economia. Allora, ha ripreso a salire il prezzo del petrolio. Come vi dicevamo prima, questa mattina quello americano WTI ha toccato i $55 al barile per la prima volta da luglio 2015, arrivando fino a 55,2. Il Brent di Londra è salito fino a $58,37, anche in questo caso ai massimi da luglio 2015. È da giorni, da settimane, che il greggio è tornato sotto i riflettori, complici naturalmente le mosse dei paesi OPEC, ma anche non OPEC, che hanno effetto dal 1 gennaio. Lo ricorderete, c'è l'intesa siglata a fine novembre sul taglio dei tetti produttivi, la prima mossa che si fa da 15 anni a questa parte. Allora, Mazziero, quali paesi hanno iniziato a sforbiciare la produzione? E c'era da aspettarselo dunque questo effetto? Poi andremo di previsioni, anche se qua ribadisco sempre che la cautela è diventata d'obbligo, ovviamente, dopo tutte le previsioni clamorosamente sbagliate l'anno scorso, però insomma qualcuno dovrà pur farlo questo lavoro sporco. Mazziero. Ma dunque, io intanto sono abbastanza cauto su questo entusiasmo dei mercati, magari poi ci veniamo. Sì. Chi ha cominciato a ridurre? Ha ricominciato a ridurre l'Oman, che tra l'altro non è OPEC, e Qatar e Kuwait avevano già a metà dicembre annunciato che avrebbero iniziato già dal 1° di gennaio, riduzione che consta di 1,2 milioni di barili, a cui si associa un'altra riduzione di circa 600 mila barili al giorno per la metà da parte di Russia e poi da altri paesi. Cosa dire? Beh, intanto il fatto che 55 è un prezzo un po' limite, infatti proprio durante da quando è iniziata la trasmissione di Focus Economia le quotazioni sono precipitate, stanno perdendo un 2% in questo momento. Sì, no? Con la borsa tutta, ecco. Peraltro. Infatti, qua, esatto. Guardi, tra l'altro devo aggiornare la situazione anche agli ascoltatori che Piazza Affari, il FTSE MIB è più 0,04%, 45 minuti fa le 5 faceva oltre un punto percentuale andando dietro agli Stati Uniti. Quindi probabilmente è successo anche qualcosa, perché un cambio repentino di umore così... Comunque, detto questo, il petrolio ha ripreso a scendere, quindi qualche presa di profitto, qualche riassestamento in termini di che cosa? Ma io direi intanto quando guardiamo alle materie prime nel breve termine dobbiamo guardare quello che è il rapporto euro-dollaro, perché le materie prime sono tutte più o meno quotate in dollari e infatti oggi il dollaro inizialmente era andato al di sotto di 1,04, sta recuperando e quindi credo che sia un po' quello il driver, poi dopodiché la volatilità effettivamente è abbastanza esagerata del petrolio, però tutto sommato credo che non ci siano grandi notizie se non quella spinta proprio dal cambio, ma per arrivare a quei fattori di riduzione che dicevamo prima, ecco qui quello che noi dobbiamo vedere è a fronte di questa riduzione quale sarà l'equilibrio di domanda e offerta. Ebbene, ci sono due stime, una è quella della IEA, International Energy Agency, che pensa che già il mercato si troverà in deficit, quindi diciamo ci sarà una produzione più bassa rispetto alla domanda già nel primo semestre, l'OPEC invece presume che andrà in deficit soltanto dal secondo semestre. In genere chi ci azzecca di più? Anche questo diciamo che poi c'è anche un metodo di calcolo che è un po' differente perché rientrano i biocombustibili eccetera eccetera fra i due istituti, però io quello che direi è che nel momento anche che il mercato va in deficit e non va poi in deficit di molti milioni di molte centinaia di migliaia di barili al giorno, c'è un ammontare incredibile di scorte che in questi due anni si sono accumulate al ritmo di un milione e mezzo di barili al giorno. Quindi, in qualche modo, i mercati adesso stanno brindando un po' tutti, stanno brindando le borse veicolate dall'entusiasmo di Trump, stanno brindando le commodity in questo momento, sì, soprattutto il petrolio, per questa, poi dopodiché gli entusiasmi però si raffreddano e quindi dovremo fare un pochettino i conti. Che non si dica che non l'abbiamo detto. Senta, a proposito di questo, no, peraltro comunque sul petrolio ricordiamo che un anno fa stava iniziando invece il precipizio, perché a metà febbraio siamo arrivati a $26 al barile, quindi già da un anno le quotazioni sono raddoppiate proprio per questo accordo dei paesi produttori, quindi già quantomeno il mercato un pochino di riassestamento l'ha trovata, adesso bisognerà trovare un equilibrio anche tra i fondamentali. Detto questo, molte analisi, oggi c'è quella di Repubblica, ma il Sole 24 ne ha fatte tante ultimamente, sulla corsa che tutte le materie prime hanno intrapreso nel 2016, intensificata soprattutto nell'ultima parte dell'anno quando è stato varato un bel niente ancora, quando comunque è stato rilasciato al mercato tutto il programma elettorale di Donald Trump con tutte le sue promesse di rilancio delle infrastrutture, che naturalmente ha bisogno, è un settore appunto che ha bisogno anche di molte materie prime, di acciaio, rame, anche se è il carbone il grande protagonista appunto del mercato delle commodities. Che cosa ci può dire a proposito di tutto questo, Mazziero? Insomma, le sorprese del 2016 secondo lei quali sono state, oppure era tutto già previsto nel 2017? Che cosa potrà essere, da che cosa potrà essere contraddistinto questo mercato? Sì, sicuramente c'è un discorso dell'entusiasmo di Trump, tra l'altro se Trump vorrà anche innescare l'inflazione, certo non fa gioco un dollaro forte, quindi già qui vediamo che c'è un'incongruenza di fondo, no? E questo molto probabilmente in questa prima fase dell'anno potrebbe patire un po' l'oro, anche se tendenzialmente negli ultimi 3 anni stagionalmente l'oro si è rivalutato, si è apprezzato nei primi mesi dell'anno. Io credo che quest'anno probabilmente non avverrà, proprio perché il mercato è distratto da altre cose. Quali potranno essere le materie prime del 2017? Naturalmente con non abbiamo il turbante e la sfera di cristallo, precisiamolo sempre, però esatto. Qualche proiezione ragionevole, ecco, chiamiamola sì. Così. Sì, ma io penso che da questi prezzi un recupero da parte di argento e platino soprattutto, che sono anche metalli industriali, un recupero dei prezzi della soia stando negli agricoli e del cacao che è stato estremamente penalizzato nel 2016. Sì, meno 33% l'anno scorso. Esattamente, e dall'altra parte chi ha fatto più 30% è il succo d'arancia, che quest'anno molto probabilmente invece a questo punto passerà il testimone al cacao, quindi il succo d'arancia scenderà e il cacao andrà su. Come si chiama il film con Eddie Murphy, una poltrona per due, eccolo qua, infatti. Se lo ripropongono in tutte ha visto. Ecco, si è materializzato il film. infatti. Poi ecco, io direi anche lo zucchero si è comportato bene nel 2016, penso che invece a questo punto ripiegherà un pochettino con i prezzi. Con qualche incertezza il caffè potrebbe ancora scendere un poco e poi riprendersi. Mm-hmm. Queste diciamo le materie prime. E poi sui metalli industriali, che dire? Il rame, il copper, che insomma è molto... Sì, punta sulla Cina, su Trump. Ecco, il rame ha già avuto uno spunto molto molto violento tra novembre e dicembre, in questo momento sta consolidando, potrà ancora salire, non tantissimo però obiettivamente, quindi anche qui a macchia di leopardo i metalli industriali credo che beneficeranno in qualche modo, sia spinti dalle politiche di Trump, sia anche da una ripresa in qualche modo della Cina. Grazie a Maurizio Mazziero per essere stato con noi, ci sentiamo magari per così un aggiornamento intermedio di queste previsioni per capire soprattutto questa storia del succo d'arancia che ci ha incuriosito, riproponendo anche in questo caso questo film che ci è piaciuto molto. Allora, adesso l'ultimo approfondimento velocissimamente, dobbiamo andare a parlare del mercato italiano dell'auto, che naturalmente è direttamente collegato anche all'andamento del prezzo del petrolio, visto che con le fiammate dei prezzi degli ultimi giorni il trasferimento alla pompa di benzina è stato praticamente quasi immediato. Vi anticipo già che ne parleremo domani a Cuore e Denari. Noi invece vogliamo raccontare dal punto di vista qualitativo cosa c'è dietro questa crescita a due cifre del mercato dell'auto in Italia. Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, che è l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia. Buonasera. Buonasera a tutti. L'ho ridotta proprio all'ultimo minuto, per cui le lascio tutta la vetrina che desidera per raccontarci dal punto di vista, come dicevo, qualitativo, cosa c'è dietro a questa crescita del 15,8% delle immatricolazioni appunto italiane dalla fine del 2015 alla fine del 2016. Allora, che cosa abbiamo attribuire appunto questa spinta? Allora, si è concluso un anno record, 1.800.000 immatricolazioni. Siamo cresciuti, come diceva lei, del 15,8% rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso eravamo cresciuti del 15% rispetto all'anno precedente, quindi stiamo facendo delle crescite veramente forti e quest'anno è stato contraddistinto da due velocità, il primo e il secondo semestre. Il primo semestre è cresciuto del 19%, il secondo del 12%. Il primo semestre c'erano delle forti promozioni delle case, era partito l'effetto superammortamento per le aziende del 140%, c'è stato un rallentamento nel secondo semestre che avevamo ampiamente previsto e poi abbiamo recuperato leggermente perché il 31-12 scadeva il superammortamento così come lo conosciamo, perché nel 2017 è stato rinnovato ma escludendo i beni che non sono strumentali. Quindi un anno sicuramente buono che fa introitare allo Stato 6 miliardi e 600 milioni di IVA, abbiamo fatturato circa 37 miliardi di euro direttamente, con l'indotto andiamo a 70 miliardi e lo Stato ha introitato solo di IVA 12 miliardi, quindi abbiamo trainato i consumi interni e questo è stato molto importante sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista dell'occupazione. Ecco, naturalmente sono tendenze che non si possono ripetere, Presidente, all'infinito. E so già che voi, per esempio, per l'anno che si è appena aperto, avete cominciato a mettere un pochino le mani avanti, ad esprimere la dovuta cautela. Lei dice: non ci stupiremmo se si verificasse quest'anno una contrazione del mercato auto. Perché? Allora, osservando i numeri, il dato che è più difficile da manipolare è quello di vendita ai privati, quindi alle famiglie. Abbiamo visto che, per esempio, quest'anno che si è appena concluso, le da manipolare, dice in termini di elaborare e rielaborare? Da manipolare con l'aggiunta di chilometri zero, altri artifici che poi rendono difficile leggere i dati, no? Ecco, il mercato privati è sceso da un anno all'altro dal 63% sul totale al 61,8%, quindi vediamo che c'è una contrazione del consumo dei privati, e questo è una cartina di tornasole. Questo aggiunto al fatto che i benefici fiscali cambiano forma e quindi sono probabilmente meno impattanti, ci fanno dire che potrebbe verificarsi anche una contrazione rispetto ai numeri che abbiamo consultivato. Anche però, perché le case campagne promozionali non possono farle per l'eternità, si hanno già concentrato molte iniziative all'inizio dell'anno scorso. No, Presidente, anche questo... Sì, però dal 31-12 si sono riazzerati, quindi voglio dire, l'anno scorso abbiamo avuto la prova che quando hanno premuto sull'acceleratore hanno raccolto tantissimo. Quest'anno si riparte da zero, ci sarà una... bisogna vedere dove posizionano queste iniziative, e lì ci sarà sicuramente un forte impulso. Noi siamo alla caccia soprattutto di 3.900.000 vetture, che in questo momento del parco circolante, che è 35.700.000 vetture, sono Euro 0 o Euro 1, quindi hanno bisogno di essere sostituite sia dal punto di vista ambientale che di sicurezza. Benissimo, ne torneremo a parlare anche con lei di tutto questo, un tema sempre molto interessante. Intanto incassiamo questo più 15,8% rispetto alla fine del 2016. Presidente Pavan Bernacchi, buon anno, grazie, a presto e buon lavoro. Buon anno a voi. Focus Economia termina qui, io torno domani a Cuore Denari alle 10.30. A tutti, buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.